Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Mamma, bella, no? Non dovevate. Nonno, c'è anche per te. Mau. Auguri papà, tanti auguri, buon Natale. Possiamo andare anche a sciare. Guarda come si fanno grandi, guarda, guarda. Dio che bella. Sono anni che vado alla ricerca di una vestaglietta di questo colore e non sono mai riuscita a trovarla. Adesso arrivi tu. Quante ipocrisie si celano dietro il Natale. Dirlo ogni volta sembra di essere dalla parte del solito rompiscatole, quello che vuole fare l'anticonformista, il cattivo a tutti i costi. Sì, è pur vero che esiste ormai una sorta di manierismo dell'antinatale che va pari passo rispetto alla zuccherosa melassa del bel Natale, che ormai vediamo rappresentato soltanto nelle sue forme esteriori. Non sono qui oggi alla ricerca del senso genuino del Natale, non sono alla ricerca del momento di quiete, di questa sorta di moratoria di ogni cattivo istinto che si consumerà davanti a un cappone rimpinzato di buone cose, che si consumerà davanti a un albero pieno di luci, si consumerà davanti a un raduno di parenti festanti, tra i quali si articoleranno invidie, cattiverie, rimostranze, recriminazioni, ingiustizie non sanate attraverso anni. Il film di Monicelli, Parenti Serpenti, è la summa cinematografica di tutto ciò che sia il cattivo Natale. Beh, lo so che oggi vorreste tutti sentir parlare di qualcosa che vi rassicura, qualcosa che vi tranquillizza, qualcosa che in fondo vi fa sentire più buoni, o al contrario, parlare delle peggiori sfighe dell'umanità, perché questo aiuta a sentirsi fortunati, questo rafforza il calore del ciocco sul caminetto, sapere ci sono persone che rabbrividiscono al freddo, questo dà più sapore al nostro cappone, al cappelletto con il brodo di gallina, alla insalata con la maionese, sapendo che qualcuno ancora fa la fame. Quindi oggi sarete costellati d'oggi in poi di immagini di coloro che il Natale lo passano tristemente. La guerra, i bambini poveri, i senza famiglia, i senza tetto, i senza casa, tutta la rassegna delle persone reiette e derelitte, del quali l'umanità si ricorda molte volte, soltanto una volta l'anno, quando è Natale. Voi non dovete darmi nulla di tutto questo. Il patto è semplice, il patto è lineare, il patto è noto, è conosciuto, non esiste possibilità di equivoco. Io oggi vi regalo un libro infame in cambio di un racconto di Natale infame. Tra qualche istante, dopo la pausa che avrete con le informazioni del traffico, dovete raccontarmi un episodio reale, infame. Dovete tirare fuori un po' di veleno, un po' di cattiveria. Quella dovrete affogare nella fetta di Pandoro soltanto tra qualche ora, tra qualche giorno, quando non potrete dire in faccia quello che pensate alle persone orribili e sgradevoli che siete costretti a vedere una volta l'anno. Un pensiero infame per un libro infame. 800 24 0024, e questa volta non abbiamo scherzato. Abbiamo autori di prima fila, abbiamo libri che ancora sono nella vetrina più eccelsa delle librerie d'Italia. Avrete presto contezza di quanto vi converrà farmi un racconto di Natale infame in cambio di un libro infame. È un patto infame, lo so. A tra poco. Melog, Cronache Meridiane. Sapete, lo sai che loro ci tengono a trovare tutto pulito? Pare che devono arrivare i principi d'Orlonia. Oh, eccoci qua, il nonno, sempre in gamba, eh? Sono 4 giorni che non vado di corpo. Come stai, ma? Ringraziando il Signore, ritte sto. Questo è Alessandro. In genere, subito dopo di noi, arrivava da Modena lo zio Alessandro, fratello della mamma, con la zia Gina e Monica, mia cugina. Stai bene? Sono contenta. Stai bene? Sono contenta. Lo zio Alessandro ama molto la natura, però papà dice sempre... Devo dire che ho una perplessità. E non posso fare a meno di dirlo, c'è ancora lo strascico delle telefonate della trasmissione che mi precede. C'è un signore di 75 anni che domanda alle colleghe che mi hanno preceduto se sua figlia fa bene a usare una crema vaginale a base di calendula, o che ne sa il signore di 75 anni che crema usi per la sua, diciamo, manutenzione intima alla figlia. Mi fa molto pensare, questo già penso che sia un prologo fantastico per un Natale infame. Poi mi scrive un altro ascoltatore: nessuna zuccherosa melassa per chi crede e da peccatore si confessa e va alla messa di mezzanotte. Caro Nicoletti, c'è un posto anche per lei in chiesa, ci sarà Enrico, caro Enrico, so che non c'è la fila, è chiaro ci sono dei posti, ma probabilmente potrei anche passarci, non dico di no, non credo che il confessarmi darà lenimento alle persone a cui ho fatto dei torti nella vita, preferirei magari sanare qualcuno dei casini che ho fatto via via, non volontariamente, ma spesso nella mia esistenza. Un Natale infame in cambio di un libro infame. Davide. Ciao Gianluca, ciao. Che sia infame, perché oggi i libri sono di grande valore e grande spessore. Non li svendo per una stupidaggine, è una cosa veramente infame. Ma allora è un racconto che ho fatto solo a pochi intimi e che ha contrassegnato un Natale poi nei miei pensieri in maniera pesante. Io sono, mi piace correre, adesso lo faccio un po' meno, ma l'ho fatto per diversi anni. Durante, sotto le festività, si tiene una corsa nel Padovano, una corsa podistica. E alla fine di questa corsa, te la faccio molto breve. Perché lei è di Padova? Lei di Padova? No, io sono di Verona, ma vado sui Colli Eugani a fare questa corsa podistica. No, però oggi ho letto che a Padova hanno arrestato un parroco che faceva prostituire la sua amante, gli hanno trovato la sagrestia piena di vibratori fuste. Mi sembra un bel racconto infame di Natale. Pensiamo quello Padova. Sì, però non mi riguarda. La città del santo, la sacrestia d'Italia, il parco arrestato, ma non soltanto un amante, che erano cose normali, non soltanto aveva fruste, frustini, vibratori, manette, ma la faceva anche prostituire per sua lussuria, una cosa che, al di là di ogni immaginazione, vero? Che mi opprime, di cui preferirei neanche pensare. Le dispiace questa storia? No, allora io ripeto, alla fine di questa corsa cioè sono i ristori e io mentre appunto mi apprestavo al ristoro c'era una signora anziana che serviva al ristoro che era proprio nel bordo opposto e dietro aveva una specie di scala, una specie di divano che lei probabilmente aveva anche controllato ma che in quel momento non sapeva di avere alle spalle. Io inavvertitamente mi accorsi di aver perso un braccialettino che avevo con me. Il suo portafortuna per vincere. Esatto, era un braccialettino, no, di quelli che andavano una volta di gomma per le per sì, in certi ambienti usava a portare questi braccialetti, mi ricordo. Esatto. Allora l'ho perso togliendomi il guanto, poi tornai a ricercarlo e cercai di coinvolgere questa signora nel cercare questo braccialetto. Lei nello spoglio sotto, diciamo, il tavolo cadde rovinosamente in questo vano scala che aveva alle spalle. Quindi lei fece rovinare la vecchia dentro il buco sottoterra. Esatto, sotterrò la vecchia. Ma con un tonfo incredibile, poi non ebbi neanche la possibilità di accertarmi perché fui sopraffatto da quelli che cercano di intervenire sempre. Gli umarelli, cioè. Improvvisano dottori, medici, chirurghi. Quindi lei, scusi, lei sulla coscienza questo peso, che probabilmente ha fatto spaccare a metà una signora buttandola in un buco. Lei è andato via facendo finta di nulla? No, perché non avrebbe proprio la possibilità, vedi solo arrivare un'ambulanza. Ed è lei potrà dire, sono stato io che l'ho spinta dentro, colpa mia. Non l'ha detto. Non l'ho detto, no. E beh, non fa ridere, poverina, chissà, forse è morta. No, perché forse si rompe qualcosa, però io non ripeto, non ebbi neanche la polopopolità. Ma lei diciamo, con un filo di voce, quando arrivò all'ospedale non disse, è stato quel giovane col braccialetto che mi ha spinto. Ma ride, ma è cattivissimo lei. No, non sono cattivo, però io me l'ha sempre detto quando ho raccontato questa cosa ai pochissimi intimi. In realtà io non ebbi la possibilità di occuparmene neanche poi a livello verbale. Come quelli che investono un pedone e scappano. Non cerchi scuse, lei poteva benissimo. Lei poteva autodenunciarsi e, diciamo, assistere la signora. Cedere un quinto del suo stipendio per la pensione di invalidità di questa signora. Ma io cercai, ma fui, ripeto, sopraffatto da chi cercò. Ma no, una scusa questa. Beh, dice, sono stato io il colpevole. Ma lei l'ha proprio. Io non fui colpevole di nulla. Ma lei l'ha spinta l'ha spinta con le mani. No, non l'ho spinta. Beh, una bottarella gliela ha data. Tirandosi nel cercare il mio braccialetto, cadde. Ma la signora. Fece un passo indietro. Scusi, la signora di una certa età. Sua sponte non sarebbe mai messa prona di fronte a lei se non l'avesse stimolata a cercare il suo anello di gomma che le era sfuggito. Esatto, lo so, purtroppo ho questo sulla coscienza, ma io non mi si è sfilato l'anello di gomma, signora, lo cerca, lei si figura, signorina, si è buttata lì subito a cercarlo. Comunque guardi, per questa cattiveria che veramente è rasenta l'omicidio, però non potevamo cominciare meglio, le regalo un libro che, guardi, lei doveva comprarsi, andare in libreria e c'è la fila, costa 12 euro, è un libro RCS, le immagini che l'autore è Walter Veltroni, la quarta buona ragione per vivere, le prime tre le sapremo con dei prequel che saranno pubblicati gli anni successivi, sono 101 film che fanno bene all'anima, che elenca Veltroni. La cosa singolare, fra questi 101 film c'è anche Shining. Ora, lei lo avrà per Natale e rifletterà assieme a Walter Veltroni quanto Shining possa far bene all'anima. Sicuramente per usare delle tecniche più raffinate per eliminare le signore, magari usando l'ascia e non buttandole semplicemente in un buco. Grazie Davide. Stefania. Sì, buongiorno e buone feste. Allora, ho una grandissima voglia di dire a mia madre che è una emerita stronza. Ma come si fa allora, a dire aspetti Stefania, iniziamo così. Lei deve dire da molto tempo, mamma sei una stronza. Sì. Come si chiama sua madre? Allora, mia madre di è un nome, anche nome di battesimo. Rosa Lisa, tutto attaccato. Rosa Lisa, già un nome. Rosa Lisa! Lo sei dica. Una stronza, ma ti voglio bene. Mamma Rosalisa? Mamma Rosalisa sei una stronza. Ok, perché? Cosa ha fatto? Adesso diciamo il perché. Allora, partiamo dal presupposto che finalmente adesso io sono una persona serena e ho comunque risolto dei miei problemi di salute. Ma cosa, in questo cosa c'è? I problemi di salute hanno causato degli allontanamenti della famiglia, per cui sono io il capo espiatore della famiglia. Quindi, ferma un attimo, Stefano, bisogna arrivarci gradualmente, sennò la cattiveria non viene centellinata. Allora, sua madre Rosalisa l'ha satanata tutta la vita con i suoi mali, con i suoi... Quindi lei finalmente c'ha un male più grosso, dice mamma, c'ho un male io grosso, lasciami in pace. Sì. Quindi bisogna avere... Oppure aiuta, cioè cerca di capire il mio male, no? Donia. Vergogna della famiglia, vergogna. Lei dice mamma, mi hanno diagnosticato un melanoma, e la mamma dice ma io c'ho l'artrite, cosa vuoi? Così è. Tipo... Sì, ecco, mettiamola da quel punto di vista. No, per far capire il paradosso, le madri sono così. Certo, certo. Cosa succede? Che il fatto che io comunque sia un po' la pecora nera della famiglia mi tengono all'oscuro di tutto. Ma pecora nera perché è una condotta, diciamo, non... A seguito di questa mia malattia psichiatrica, magari ho avuto dei comportamenti, diciamo così, poco consoni, cioè io evidentemente, in modo evidente, loro magari tra le quattro mura gli stessi, però... Insomma, ma cosa ti dava? Degli episodi di ninfomania? Qual era il problema? No, scusa, no, Stefania, dobbiamo capire. Tu butti dei sassi. Avevi degli episodi che rasentavano la ninfomania? Qual era il problema? No, per capire. Allora, io sono un alcolista finalmente sobria. Succede, ognuno c'aveva un problema. Per cui l'alcol ti porta anche a fare, magari, ad avere determinati comportamenti. Avevi un problema, mica lo facevi perché... Avevo un problema, causato comunque da una patologia psichiatrica. E lei dice, sua madre, scusi, che si attaccava al fiasco a casa. Breaking news. Ancora un aggiornamento dalla redazione che in questo caso riguarda un'altra notizia, ma forse, almeno da quel che apprendiamo, anch'essa connessa con vicende di terrorismo e riguarda un dirottamento di un aereo, un Airbus A320, un volo interno libico che è stato dirottato verso Malta con 118 persone a bordo. A quanto si apprende dalla BBC, in questi momenti i dirottatori che si sono impadroniti dell'aereo hanno minacciato di far saltare in aria il velivolo. Vi daremo maggiori aggiornamenti naturalmente in effetto giorno. Riprendiamo con l'ascoltatrice che parlava, noi andiamo su un altro filone, seguiremo anche la notizia dell'aereo dirottato. Tutte le volte che il giornale vorrà interromperci saremo qui a dare loro spazio, come è giusto. Stefania, ritorniamo un attimo al nostro discorso. Okay, lei dice, mia madre, che anche lei alzava il gomito in famiglia, se la prendeva con me che avevo un problema palese. Ecco, per cui comunque cosa succede? Che quando uno diventa il capo espiatorio è facile riversare tutte le colpe sulla persona, no? Adesso io non voglio né giustificarmi né niente, volevo arrivare un po' al dunque di del perché io arrivo a dire che è stronza. Perché nel 2012 io mio papà è stato ricoverato, nessuno mi ha avvisato, era in punto di morte, io ho saputo da un'amica per caso il giorno prima che mio padre era ricoverato e ho avuto la fortuna di salutare mio papà, con cui non ho mai avuto un rapporto molto stretto, però quel giorno ci siamo detti, e adesso mi commuovo, cioè lui per la prima volta mi ha detto: Stefania, ti voglio bene. Sì, vabbè, però lei mi sta facendo, scusa Stefania, io non vorrei dire, mi stai facendo un racconto triste, pietoso, edulcorato e anche diciamo edificante, mi stai raccontando una storia edificante. Natale ha ritrovato un rapporto con il padre, ma che c'è dall'altra parte? E dov'è l'infamità? Ci sono i serpenti che nessuno perché nessuno sì, ma tu hai in qualche maniera stemperato l'infamità con un racconto edificante, ciò non è bello. Non sono mai riuscita a dir loro siete proprio degli emeriti bastardi. Cioè che cazzo ho fatto io? Se avevo un tumore, avessi avuto un tumore per loro sarebbe stata una cosa, poverina c'è il tumore, avevo un altro tipo di patologia, sono la vergogna della famiglia. Vabbè, fattene una ragione, succede, nelle famiglie non t'ammettono di uscire dal seminato, non t'ammettono di uscire fuori dalla sacra cappella familiare, succede a tutti, fattene una ragione e consolati con un librettino che ti darò, un libretto di un grandissimo scrittore che se solo sapesse che il suo testo viene definito libro infame gli verrebbe uno schiattone dalla rabbia. Francesco Alberoni, che tu sai benissimo chi è, un grande sociologo, per anni ha fatto un suo pensiero in prima pagina sul Corriere della Sera, c'è un bel disegnino del leone in prima pagina, l'arte di aver coraggio, affrontare e vincere le paure del quotidiano di Francesco Alberoni. Dai, un bel libretto, però un'altra volta parti dalla mamma infame, non raccontarmi anche la storiella edificante del padre, sennò sembra un altro tipo di radio, un altro tipo di intento. Mamma, dimentichiamo la storia giusta a buon fine del padre, ma vediamo quella della madre che ancora ti tartassa a distanza e non capisce che tu avevi un problema e mentre ti maltratta e parla male di te c'ha il fiasco sotto mano e tracanna a quattro palmenti. Ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Sono Enrico Ruggeri e in arrivo per voi una grande puntata natalizia. Racconteremo la storia di Scrooge, il protagonista del Canto di Natale, e soprattutto capiremo perché e da quando il Natale è diventata la festa nella quale tutti proviamo a essere più buoni. La notte della vigilia alle 21:30 e il giorno di Natale alle 13:30. La storia della nostra bontà. Buon Natale. Melog, cronache meridionali. Sai qual è il mio difetto più grande? Laura, prendi. È che sono troppo buona. Io gli do tutto quello che ho alla gente, tutto. E per tutta risposta sai che cosa mi prendo? Un bel calcio dove sappiamo, ecco quello che mi prendo. Essere buoni, poi finisce sempre Carlo, così. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ricordo a quelli che sono messi in ascolto solo adesso, oggi il patto è scellerato ma semplice, lineare, totalmente trasparente. Un Natale infame in cambio di un libro infame. Il libro infame di che tenore, che spessore, ne avete già avuto sentore nella prima parte, dove ho regalato un Veltroni e un Alberoni. Chissà cosa toccherà a Davide. Davide, buongiorno. Ah no, scusate, Carlo, prima c'è Carlo. Avevamo organizzato un Natale con un raduno tra parenti, eravamo quattro famiglie, quasi una ventina di persone, e invece di scambiarci i regali abbiamo detto ognuno prepara qualcosa da condividere durante il pranzo. E mio cognato con la sua famiglia, quattro persone anche loro, si sono presentati con un pezzettino di formaggio grana, di quelli che si trovano nei banchi frigo già pronti dei supermercati, sarà stato un paio d'etti. Ma lo spicchiettino di grana, quello lì, massimo, quello 5 euro fanato, esatto. Che è sempre robetta vecchia, poi sono sempre gli scarti, ritagli. Sì, infatti. E niente, hanno mangiato tutto. Quando siamo arrivati al momento del formaggio, hanno detto: beh, noi dobbiamo andare perché abbiamo dato appuntamento ai nostri amici. Si sono stati e se ne sono andati. E quindi gli infami sono stati loro? Sì, perché, però in qualche maniera hanno rovinato un po' il Natale a tutti, perché naturalmente... Sì, ma scusi, ma io il libro non posso darlo a lei, devo darlo a loro. Ah, è vero! Caro Carlo, allora... purtroppo devo essere infame, non posso elargirle nulla, ma però ti do un premio di consolazione, va, un premio di consolazione. Non è i libri infami che avrei dato se avesse veramente... Ecco, il premio di consolazione che poi fino a un certo punto è un libro che... Le sarà senz'altro utile, visto che ormai il Papa telefona ogni piede spinto, ha chiamato una mattina, può essere chiamerà anche altre trasmissioni, di José María Escrivá de Valangué, Il Cammino, è il padre dei gesuiti, le mando questo libro, anche sottolineato, chissà di chi era questa copia che ho trovato sottolineata, comunque una copia sottolineata che mi hanno portato, le dico una frase sottolineata, sì grato, come di un favore specialissimo per quel santo aborrimento che senti in te stesso. Quindi lei consideri che quella cosa, gli micragnosi della fetta di parmigiano, per lei, senti, non fischi dal piacere, è stato per lei un valtore, deve un vantaggio, deve riflettere sul vantaggio. Il Cammino di Escrivá de Valangué, in bocca al lupo, ciao. Grazie anche a lei. Davide, buongiorno. David. Buongiorno Nicoletti, sono David da Roma, detto Cobra. Il Cobra, vediamo un po' se oggi ti meriti un bel libro. Niente, quest'anno mia sorella... Perché ti chiamano il Cobra? Mi chiamano il Cobra perché, non lo so, mi ci hanno sempre chiamato. Perché beh, c'era una ragione. Un po' di testa, quando ero ragazzino partivo di testa. Ah, andavi di capoccia? Quindi, sì. E perché il Cobra dà le capocciate, morde il Cobra. Sì, però l'azione era quella che con la testa, insomma, zannava, no? Andavi le testate e spaccavi la faccia agli altri? Diciamo, sì, quando ero piccolino, ormai... Eri coatto da piccolo, sì. Oh, sì, ero un bel coatto antico. Un bel coatto e il Cobra. Allora, Davide, vediamo se ti meriti un bel libretto. Allora, io ogni anno, come un coatto, insomma, mi piace comunque stare a casa, calzini, pigiama e cose di questo genere. Quest'anno mia sorella ha invitato un estraneo, un amico suo calabrese. Che a te non piaceva, che a te non piaceva. Ma no, io a Natale voglio stare con la mia famiglia e basta, non voglio stare... Beh, magari è il fidanzato. No, perché gli faceva tenerezza, perché comunque è anche il suo compleanno, un po' sfigato, gli dà la Calabria, cose del suo genere. Vabbè, ma questo è un atteggiamento per farsi compatire, lui voleva accasarsi con tua sorella, è chiaro questo, no? Ma non lo so, in ogni ma caso io ho detto o lui o me, quindi quest'anno che cosa ho fatto? Ma perché non ti piacciono i calabresi, qual è il problema? No, non mi piace che uno sta dentro la famiglia a Natale io sto. Ma metti che il fidanzato, ma metti che lei lo amasse, scusa, non gli poteva portare a casa intanto a fare il chiara tirava? Sì, ma lo porta tutti i giorni, che me frega a me, ma com'è? A Natale. Com'era a vederlo questo calabrese? Non lo so, a me mi infastidia anche perché vengo, non lo so. Aveva un cattivo odore, qual era il problema? Perché non ti... No, c'è un cattivo odore, è che a me a Natale non ci voglio nessuno. Ma ha portato dei regali, dell'anduia, delle cose, niente? No, perché è successo che io ho detto o lui o me quest'anno. E naturalmente hanno scelto te. No, io a mia sorella gli ho dato, che se vuole fare la misericordiosa, gli ho comprato un bel biglietto da 29 euro per la Calabria e lo fa ancora più felice. Vabbè, ma poveraccio, ma vedi, è un atteggiamento discriminatorio, però nel caso comunque di infamità... Comunque non gliel'ha comprato, gliel'ho comprato io un biglietto, quindi quest'anno... L'hai rimandato a casa? No, gli ho dato un biglietto a mia sorella, ho detto questo è per il tuo calabrese, mandalo in Calabria a Natale e quando ha finito la vacanza ritorna su, così Natale non lo passa da solo. E quindi io passo il Natale in famiglia. Ma se fosse stato di Frascati era la stessa cosa o perché era calabrese? La stessa cosa, avrei comprato il biglietto del Cotro e la panna sua a Frascati, ma che me frega a me. E se fosse stato del quartierino tuo andava bene uguale? Ma certo, ma no. Ma a cioè Natale tua sorella, poraccia, non può portare un disgraziato a casa il giorno di Natale? No, perché comunque sia, se vuole fare la misericordiosa, ci stanno mille modi di fare la misericordiosa. Ma magari magari poi gli lavava i piedi davanti a tutti, queste cose qua che si fanno. Ma ci sta la chiesa, tu vai là, domenica, la sera, vai là, lavi i piedi, stiamo tutti contenti. Ma tu metti ma che trovi una... Scusami, no, piedi no, Davide. Dentro casa sul divano. Ok, metti che, Davide, che tu incontri una pischella che ti piace. Non la porti a casa al giorno di Natale? A Natale, ma a Natale io ho la mia intimità, tiro fuori le mie coperte più speciali. I canti natalizi che faccio solo io e mi vergogno a farli davanti ai miei amici. Davanti al presepe, queste cose da buoni? Ma sì, ma cose personali. Se canti davanti al presepe mandi un disgraziato poverino. Coccodrillo a Natale. Ma adesso sarà lì con i lupi della Sila che lo aggrediscono, nel ghiaccio, nel freddo, senza niente da mangiare. Ma io ero disposto pure, oltre a fargli il biglietto, ero disposto pure a fargli un regalo, ma l'importante è che sono andato a casa che a casa tua non si entra. Eh no, a Natale no. Metti caso, bussa, sono Totti. Mi fai entrare la notte di Natale? No, a me me ne frega un cazzo, ma neanche dei Totti, cioè io non guardo in faccia a nessuno. A Natale casa mia è... Allora ti regalo un libro, ti fa riflettere anche sulla diversità di punti di vista, sul caleidoscopio di opinioni, di condizioni dell'umanità. È di Krzysztof Szaramska, La prima pietra. Io prete gay, la mia ribellione e l'ipocrisia della Chiesa. Questo era quel prete, ti ricordi, quel prete Finocchio che ha fatto un libro, che si è diciamo dichiarato di fronte al Papa, ha scritto un libro, La prima pietra, che è notoriamente la più dura. Te lo mando, è quello che può essere un supporto per rendere migliore il tuo Natale. Sei contento, David? Sì, sono molto contento. Grazie Davide, sono contento. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, sì. Salve, grazie. Niente, io volevo raccontare questa cosa che ho fatto fino a quasi la maggiore età, insomma. Io, siccome i regali di Natale erano un problema per me, lo sono un po' per tutti comunque. Sì, appunto. Allora io, siccome mio padre faceva il professore, avevo un sacco di vestiti, andavo in armadio, prendevo le cravatte o i vestiti o le camicie, gliele incartavo e gliele regalavo. Lui si è mai accorto di niente. Era già un po' rincoglionito, era già sulla strada della no, demenza senile. No, era un uomo distratto. Ma e non riconosceva la sua cravatta vecchia? No, ne aveva talmente tante che secondo me non ha mai... No, mia madre una volta, ho detto alla signorina prima, disse che ne aveva una simile. Io ho detto, cavoli, meno male. Tu rimpacchettavi le cravatte? Ma questo mi sembra... Sì, io impacchettavo in maniera professionale, a volte... È geniale già... come circolo del recupero comunque. No, era una cosa che poi è incredibile perché secondo me era delinquenziale, perché poi ogni tanto adesso che ho due figli, insomma, ogni tanto... Ho tentazioni di questo tipo quando vedo i giocattoli ancora nuovi di mio figlio. Dico, mi correggono e scrive De Valanghe che fondò l'Opus Dei, non era un gesuita, scusate, perdonatemi. Ah, sì, glielo volevo dire, sì, perché... Sì, sì, io so, vabbè, la faccia ce l'aveva da gesuita, però. E non era un gesuita. Perché non era un gesuita. Sì, sì, vabbè, mica ho detto male. No, ma... Non so di che ordine fosse, però non era gesuita. Opus Dei, è un Opus Dei. Ma l'Opus Dei l'ha inventata lui. Ma prima dell'Opus Dei cos'era? L'Opus Dei è una roba... Sì, ma prima che lui inventasse l'Opus Dei, cos'era? Mica è nato Opus Dei, l'ha inventata lui. No, lui credo fosse... Sì, ma un parroco, penso fosse un prete. Pensavo fosse gesuita, era spagnolo, mi sono sbagliato, scusate. Sì, può essere, no, può essere. No, mi dico non era un gesuita, può essere. Niente, vabbè. Sto leggendo dietro, ma non c'è scritto. No, lavoro, famiglia, impegni sociali, attraverso professione, uomo esprime... Ha ragione, non mi sono mai chiesto cosa fosse prima di diventare... Un grande, un santo adesso. Secondo me è un prete, era un parroco normale, cioè nel senso non era di un ordine, secondo me. José María Escrivá nasce a Barbastro, Aragona, nel 1902, è ordinato sacerdote il 25, trasferisce a Madrid, attività sacerdotale, apostolato. Sì, è un semplice sacerdote, è vero. No, in questo momento ero tanto euforico di fare questo regalo. È un semplice sacerdote, non c'entra... Comunque, al Papa farà piacere lo stesso, penso. Adesso non so nelle complesse suddivisioni del potere nell'ambito dei grandi gruppi ecclesiali, se il Papa sia d'accordo. Comunque, Il Cammino è un libro fondamentale, un manuale di sopravvivenza. Lo conosce lei? Cavoli, sì. Ce l'ho già, però va bene. È dell'Opus anche lei? Allora lo riciclo. No, ho frequentato perché mio padre frequentava, per cui ho frequentato. Sì, voglio sapere se questa sua tecnica del riciclo della cravatta ha trovato ispirazione leggendo Il Cammino di Escrivá. lo leggeva da piccolo. Lo leggevo da piccolo, ero già grande, però sì. No. Lei ha avuto una fulminazione sulla via di Damasco, poi si è ricreduto. Sì. Ma no, diciamo che era un modo di nostri genitori di mandarci in modo sicuro a fare le vacanze studio, poi andavamo dei mesi in Irlanda con l'Opus Dei. Lei ha fatto le vacanze con l'Opus Dei. E ripagava queste attenzioni paterne, le ripagava con l'infamità della cravatta. È così, eh? Sì, no, allora, era un modo... Ho il libro adatto per lei, che è una sorta di nemesi. Lo veda come un contrappasso rispetto al suo fuorviare dalla dritta via che le aveva dato suo padre con l'infamità della cravatta che non avrà... Che non gliel'ho mai detto, poi magari adesso... non ascolta la radio. Magari qualcuno glielo dice. Allora, mia sorella lo sa, va bene. Le leggo la fascetta, così pian piano ci arriva gradualmente. Dopo il grande successo di Tornati dall'aldilà, un viaggio alla ricerca dell'infinito che si è fatto uomo. Tutto ciò che è umano è un grido contro la morte, contro il nulla. Chi è l'autore? Vediamo lei se ha studiato. Oddio. Tornati dall'aldilà. Chi può aver scritto il libro Tornati dall'aldilà? Uno che è morto e poi è tornato. Ah, se è morto può essere, ma non se ne è accorto che ancora scrive libri. Chi sarà mai? E via, lo dica su. È vicino alla sua sensibilità, anche se vicino oddio. Però. parlando. Ha una barba, no? Ha una barbetta, maglioncino nero alto, giornalista, scrittore, polemista. Ce l'ha un po' con questo Papa. Antonio Socci, avventurieri dell'Eterno. Okay. Sì, se lo prende, per lei. Oddio, lo avrà sotto l'albero. Madonna. Davanti alla fragilità del mondo, dentro di noi sentiamo la certezza di essere fatti per una felicità infinita e non qualcosa di meno. È un bel augurio. No, lei è fatto per una felicità infinita. Auguri, grazie, in bocca al lupo. Ci fermiamo un istante. Alla prossima. Melog. Cronache meridiane. Appena sole, mamma e zia Milena iniziavano a dir male della zia Gina. Hai sentito? Mo va a fare lo yoga? Dice che si deve rilassare. Ma di che? Al posto di Alessandro, sai, Cerfoni? E il cashmere, la pelliccia? Scusa, ma dove li prendi tutti questi soldi? Milena mia, lasciatelo dire. Quanto sei ingenua. Ma tu dici? Non ci posso credere. Ma secondo te lei sta sempre con quello oppure ha cambiato partner? Uno soltanto? L'hanno vista che andava al cinema da sola? Entrava sola. Hai visto come ci ha guardato? Queste sono le chiacchiere che fanno le cognate verso quella di coscia più disinibita di tutte, che poi girava un giornalino tipo Autoscatto, in cui si vedeva che lei con il marito andavano nei clubini di scambisti. Questo, per dirvi, succedeva e si consumava in una sorta di Sulmona primi anni 90. Un film fantastico sulla cattiveria natalizia. Ricordo oggi qual è il mio patto scellerato, per cui mi sto guadagnando eoni di purgatorio con i diavoli, con i forconi, anche per aver confuso Escrivá de Valangué come un gesuita, che non lo è, era un parroco spagnolo. Scusatemi questo mio errore, del quale mi cospargo il capo di cenere, ma oggi il patto è quanto mai mefistofelico: un Natale infame in cambio di un libro infame. Dino. Buongiorno, io sono Dino e ho detto che cosa mi è capitato stamattina. No? Davvero, Dino? A proposito del Natale, ma mi è capitata una cosa bella, ma che io non posso accettare, perché sono contro i regali di Natale, contro qualsiasi tipo di regalo. Cos'è successo? No. Mi spieghi. Allora, mi viene a trovare un amico ma veramente con la maiuscola. Io faccio, sono un ex agricoltore in pensione. Mi viene a trovare e mi dice: sa, io e mia moglie ti abbiamo portato questo pensiero, ma allora io gli dico subito: no, guarda, io non accetto pensieri da nessuno. Vabbè, questo è un atteggiamento arrogante. Uno dice: sì, grazie. Sì, è arrogante il mio. Va bene. È di quelli lì un pochino che vogliono fare i burberi a tutti i costi. Non voglio nulla, non regalatemi nulla. No, non voglio nulla. Io perché ha paura che poi deve restituire il regalo in qualche maniera, contraccambiarlo. Siccome che questo è un amico, veramente, io faccio l'orto per casa e lui, gli dico, viene a prendere la roba, perché ne faccio sempre di più, anzi, ne faccio tanta di più, che tanta me se spreca. Quindi lei lo porta nell'orto e dice: raccogliti un po' di ravanelli, un po' di quello che c'è. Ma lui sempre viene, ogni tanto, come se la finisce, viene su, la prende, io non ne guardo neanche, perché... Vabbè, voleva sdebitarsi in qualche maniera. Allora, io mi volto, vado nel campo e lui va a raccogliersi la roba. Mi sono messo in macchina perché sono... Cosa c'è in questo momento, cosa c'è nel suo campo? C'è insalata, finocchi. Radicchio, cicoria, insomma. C'è della bella verdurina, sì. Prego? Della bella verdurina, c'è la roba da prendere. Sì, c'è parecchia roba. E quindi? Quindi mi sono girato, sono andato nel campo perché stavo a curare i carciofi, perché c'ho quasi i carciofi pronti. Pronti, sono lì pronti per Natale, certo. No, per Natale no, ma... a gennaio c'è i carciofi. Io sono nelle Marche, comunque. Ah, beh, lì è freddo. Beh, allora che succede? Faccia capire. Salgo in macchina per andare a casa, vado a vedere dietro nel portapacchi, mi ci ha lasciato questo piccolo omaggio con un qualcosa lì. Non gli dico niente perché è bello, è stata una cosa molto nobile da parte ma sua. Ma che gli ha messo in macchina? Cosa gli ha messo? Qual è il regalo? Ma è una bottiglia di spumante, ma è quello buono, sa? Vabbè, per quanto avrà pagato 5 euro al supermercato, a dir tanto, qual è il problema? Sì, ma Ma non è questo, io non accetto reali, cioè, sa perché? Sì, ma ho capito, perché scusi, io... ma questo le ha scroccato verdura per tutto l'anno. L'ha regalato l'equivalente di quattro finocchi e un cespo d'insalata, su, che sarà mai? Ascolti, io non voglio vabbè, allora, né grandi né piccoli. E che ci fa con sta bottiglia, allora? La tira come adesso, una bottiglia molle? Domani mattina... Gliela riporta? Gliela lascio davanti a casa. Gliela rimette davanti alla porta. Oh, così impara, sì, capisce. Sì. Bravo, questo è un bel atteggiamento di sfregio, mi piace. L'amico che entra lì sta lessandosi i finocchi, si ritrova la bottiglia sulla porta di casa e capisce che ad Alessandro non si fanno regali. Le faccio un libro di una persona nota, è un libro bello, è un libro che ha sulla copertina un bambino della Rizzoli, è un libro che parla di un ragazzino che aveva 37 anni, che in realtà il ragazzino è ancora una volta Walter Veltroni, di Walter Veltroni, ciao, di Rizzoli, romanzo. Un romanzo che non glielo regalo, lo consideri in cambio del suo racconto, non è un regalo, è come se l'avessi pagata, quindi non me lo ributti davanti casa, che poi veramente se mi ritrovo il libro di Veltroni davanti casa, domani ho veramente dei problemi. Grazie, Alessandro. Alessandro ha parlato? No, Alessandro. Alessandro. Ciao Gianluca. Sì. Piacere di conoscerti. Allora, ti parlo di una tecnica che ho inventato per effettuare regali a costo praticamente zero. Il punto di partenza regali infami, penso. Regali infami, ma è una tecnica comunque che permette di non avere alcuna spesa ed effettuare completamente tutti i regali. È un bel sabotaggio, un bel sabotaggio fisico verso gli altri, naturalmente. Esattamente, anzi il punto di partenza è regalare cioccolato scaduto, quindi è questa la mia tecnica. Quindi come fai? Dove la trova? Il cibo scaduto dove lo trova lei? Allora, inizialmente vado verso ottobre-novembre allo spaccio di una fabbrica di cioccolato di Novi Ligure e qui acquisto a prezzi stracciati, addirittura irrisori, prodotti in cioccolato che normalmente al supermercato hanno un costo piuttosto elevato. Però vicino alla data di scadenza, come funziona? Esattamente, così che io rimuovo la data di scadenza semplicemente con un fazzolettino imbevuto di alcol, la data impressa tramite un inchiostro molto labile, va via. E così il prodotto va via. A questo punto vado dalla prima persona e gli faccio un regalo, un bel sacchettone di cioccolato che io ho pagato 7 euro, ma in realtà il costo effettivo in un supermarket sarebbe di 50-60 però euro. Però è marcito perché è scaduto. No, più o meno regge ancora, perché comunque i prodotti dopo 2-3 mesi sono ancora buoni, sì, a mangiare. Comunque è roba scaduta, in ogni caso è scaduta. Sì, è roba scaduta da 2 mesi anche. Quindi gli potrebbe venire veramente anche un po' di dissenteria, magari, se è un po' delicato. Sì, anche soprattutto finisce dei bambini. I bambini poverini, tutti con mal di pancia. Vabbè. Fa venire il mal di pancia ai bambini e ai suoi amici regalando la cioccolata che in maniera proditoria lei acquista vicino alla data di scadenza, la fa scadere e gliela regala scaduta. In più puzza anche di alcol, perché l'odore dell'alcol denaturato quando cancella quello non è proprio bello. Quindi... No, quello non va via, perché poi comunque l'odore non è proprio sul cioccolato, è chiaramente su una confezione. Vabbè, questo le procura la gioia del sabotaggio della felicità altrui, del sabotaggio della salute dei bambini altrui, e in più l'idea che così fa dei regali e frega gli altri. Guardi, lei merita questo veramente. È un libro di cui non mi volevo privare, me lo sarei portato a casa, me lo sarei letto avidamente per tutte le feste. Le leggo la quarta di copertina. Le persone normali si difendono. Quando vedono qualcosa che non vogliono vedere, fanno finta di niente. Come i suoi amici che non capiscono che il cioccolato è scaduto. Ma la cosa, non si sa cosa sia, la cosa resta là e ti guarda, aspettando che tu ti renda conto che dalla verità non c'è scampo. Ecco, la cosa. Cosa sarà la cosa che ti guarda e resta lì aspettando? Lo saprai quando leggerà il libro Quella notte sono io, romanzo di Giovanni Floris. Hanno provato a non guardare indietro, ma la verità è più forte del tempo. Qual è la cosa che spaventa nel libro di Giovanni Floris, che sta lì e guarda e aspetta? Lo saprai leggendo questo libro. Ne faccio in tempo a fare un altro velocemente, l'ultimo è Marco. Ma Gianluca, buongiorno. Ma è velocissimo. Io a Natale del 93 avevo comprato 2 giorni prima un biglietto Interrail per andare in Scozia e in stazione con il mio amico ci siamo andati in faccia e abbiamo detto il 25. Perciò il giorno del pranzo di Natale con tutti i parenti mentre si sta festeggiando, alle 4 io sono salito, ho preso il mio zaino, salutato. Perfetto. A Marco Alzamico, che in barba a tutti i parenti che aspettano lì regali, la seduta a tavola, l'ignominia di raccontargli la loro storia, è andato in Scozia. Regalo il libro di Andrea Scanzi, Migliore di noi, romanzo, che in assoluto il libro più infame dei libri infami. Se lo becchi, lo faccia a metà col suo amico, tanto in Scozia avrete imparato che un libro basta anche per due persone. Alla prossima, forse dopo Natale ci sentiremo, chissà.